Trovarsi senza una dimora è la condizione più drammatica nella quale ci si possa trovare a vivere. Non mi è mai capitato nella vita di leggere che un sindaco è contento di avere prodotto lo sgombero e quindi la condizione di senza fissa dimora per 500 persone. Non mi è mai capitato di immaginare che fare il sindaco possa dire non solo lavarsi le mani, delle situazioni difficili in cui i tuoi cittadini, perché quelli sono cittadini di Ferrara e hanno diritto di essere trattati come cittadini e quindi hanno diritto alle tutele, hanno diritto al sostegno, hanno diritto all'accompagnamento. Ma leggere addirittura che un sindaco si vanta di aver fatto questo è per me stata una cosa veramente strabiliante. Non credo che nel ruolo del sindaco sia contemplato il fatto che tu decidi, sapendo benissimo qual era la condizione di quegli stabili, perché questo è l'elemento più grave anche che accompagna la gravità della decisione, non essere intervenuti mai per tempo per mettere in sicurezza e limitarsi a fare degli sgomberi dicendo sostanzialmente alle persone il problema è vostro, arrangiate. Credo che dal punto di vista dello Stato di diritto ci siano dei rilievi molto gravi, immagino che ci saranno anche azioni legali e che verrà studiata anche, quindi analizzata e considerata la situazione, e certamente per quanto possiamo il nostro massimo impegno per fare in modo che lo Stato si prenda carico come deve e quindi faccia fronte ai propri obblighi adempiendo alla relazione corretta che uno Stato deve avere con i propri cittadini.